da quando sono entrata in consiglio comunale pensavo a Marcella quando sedeva lei sugli stessi scranni ed era la prima consigliera trans al mondo a essere in un consiglio comunale, quindi è un pensiero che mi ha accompagnato sempre. Poi non nascondo che da parte di diverse consigliere soprattutto mi è stato detto: ma perché non si fa questo passaggio? Per me che sono, diciamo, inesperta tecnicamente di politica istituzionale, il mio primo mandato, non sapevo neanche come procedere. Quindi man mano, come dire, si è fatta strada all'idea soprattutto, ma per un segno di gratitudine verso Marcella, perché Marcella sedendo lì ha costruito insieme ad altra gente, me compresa, delle strutture MIT che sono uniche, erano uniche al mondo, quindi come dire, una ricchezza per la città. E poi perché si è spesa, e questo lo dico proprio molto molto spassionatamente, per tutte le persone fragili, da anziani, malati. Cioè lei veniva chiamata anche di notte e correva, ma lo faceva in maniera molto spontanea, è una cosa che sentiva. Dico, queste qualità, e ne potrei elencare diverse, insieme al fatto che Marcella era diventata e tuttora lo è un'icona a Bologna, sia per un po' per le sue caratteristiche fisiche, sia per la sua voce, sia per le sue modalità, Bologna non la dimentica. E assolutamente, quindi tutto questo insieme mi è sembrato carino rendere l'aula del consiglio comunale più ricca, più colorata, mi verrebbe da dire, partendo dalla Rainbow che diciamo che ci appartiene al mondo LGBTQ+, con una poltrona intestata a chi su quella poltrona ha seduto, ecco, e ha deliberato. Bologna poi ha una sua caratteristica relativa ai diritti al mondo LGBTQ+, e quindi quel mondo lo dobbiamo curare, uso il plurale, perché riguarda non la libertà e l'autodeterminazione di una categoria, ma di tutte e tutti, ecco, a Bologna.